Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Sì, c'è poco da ridere, te lo dico subito Drago, io oggi non faccio niente. Ma ancora con questa storia, è venerdì. È venerdì. Drago, it's Friday, il venerdì per me è già weekend. Ma dai, ma Kappa, sono take soltanto it easy, take minuti. The weekend. Take it easy, 10 minuti, cosa vuoi che siano? Non fare il bambino tutte le volte. Siamo all'asilo, non fare il bambino, cosa devo fare? Vabbè, appunto, guarda che l'asilo è un luogo di grande potere, e di grandi interessi, di grandi grani, di grandi rogne, di grandi menate, di grandi magagne. Se tu chiedi a Google grandi magagne, viene fuori l'asilo. Ma non no, è vero. Se tu chiedi a Google di segnalarti ogni giorno le notizie che riguardano gli asili, vedrai che ogni giorno c'è una polemica, ogni giorno c'è una denuncia, ogni giorno c'è una protesta. Negli asili italiani. Certo, anche in questo asilo. Tu non lo sai, ma in questo momento, mentre noi stiamo qui chiacchierando amabilmente, stanno volando delle gran carte bollate. Ma per cosa? Per la mensa. Ma come? Ma sempre la mensa? Sì, la mensa. Ma cos'è che non va alla mensa? Lasagne pelose, totano all'ammoniaca, succhi di frutta industriale al posto della frutta fresca, ti basta? Ma quali lasagne pelose? Lasagne pelose, senti questa mamma. Signora, come si mangia in questa mensa? La maggior parte dei pasti, non è solo i miei figli, ma anche tutti gli altri, sono scadenti. La maggior parte viene buttata perché è non buona. Hanno trovato anche, è stato attestato proprio magari anche nelle lasagne, dei peli. Le lasagne pelose. Chiedo asilo. Le persone che chiedono asilo nido. Asilo nido. Allora qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna fare così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. E ora, bambini, ricreazione! Oh, la ricreazione del venerdì, Drago, è una boccata d'aria fresca nello stagno del mondo di oggi. Vabbè, che esagerazione, stagno maleodorante mondo. Del mondo di oggi. La ricreazione del venerdì è uguale, identica a quella del lunedì. Ma non è vero. Una perdita di tempo e basta. No, sei palloso, lavorare. Sei palloso. Non senti il profumo del weekend che caratterizza la ricreazione oggi, eh? No, io veramente sento solo l'odore di cibi precotti che proviene dalla mensa. Eh sì, e c'è anche il solito bambino Alberto, solitario e triste, poveretto. Eh sì, oggi sono triste davvero. Cos'è successo stavolta? Ho perso la figurina di Pizza Balla, stagione 65-66. Cos'è? Volevo un patrimonio. Ma cos'è? Che raccolte di figurine fai Pizza Balla 65-66? Faccio raccolte vintage. Ah, vintage. Avevo appena fatto uno scambio. Ah, e quante figurine avevi dato per Pizza Balla? Figurine? Ho dovuto darle un esercito intero di soldatini e poi tutti i giochi da tavolo che avevo a casa, compreso il Monopoli. Oh no, peccato. E adesso? E adesso non la trovo più. Vabbè, dai, una figurina. Eh no, io voglio il sbattimento, Vabbè, bambino, capisco che perdere una cosa qui tieni tantissimo è una cosa dolorosa. Pizza Balla 65-66. Però così almeno impara un po' il senso della vita. Sì, no? Bravo. Cioè che la vita è brutta. No, anzi, la vita è bellissima. No, perché... no, è brutta. Ma no, un po' sì, dai, Drago, un po' Kappa, è brutta. Non insegnali queste cose. Beh, se perdere la figurina di Pizza Balla serve a capire cos'è la vita, allora ho capito che è brutta. È brutto e triste, perché io senza la figurina di Pizzaballa vado in sbattimento. Guarda, forse devi rassegnarti, calmarti, bambino Bertuccia, perché no, è andata no, così. No, no, la Bertuccia no, mi perché? Offendo, eh. Ma perché? Ma è una scimmia. Ma è europea come scimmia, quindi... E quindi è meno offensivo? Eh beh, sì, dai, vabbè, è meglio, no? Comunque, bambino Alberto, Bertuccia, rassegnandoti darai segno di maturità. Vuol dire che sei un po' maturato, imparerai che se perdi una cosa è inutile dar di matto. E la prossima volta farai più attenzione. Che Drago quella... perde sempre le chiavi. È quella la lezione da imparare. Sì. Sta tranquillo. Esatto. Sì, ma io ce l'avevo in mano. Poi mi è arrivato un SMS e mi sono distratto e non l'ho più vista. Appunto, quindi. Se quel pirla di mio fratello mi avesse mandato l'SMS. Ma, sì, ma cosa c'entra suo fratello? Ma che si prenda le sue colpe, scusa, non si deve mai scaricare la responsabilità dei propri errori sugli altri. Ma se suo fratello non gli mandava l'SMS. Ho capito. Ma scusa, ma da adulto mica ti sarà concesso di dire era colpa di mio fratello? Come no? Da adulto, no. Responsabilità sono tue. Beh, allora come la mettiamo con Bill Clinton? Cosa c'entra Bill Clinton? No, no, lui ha perso i codici per far partire la bomba atomica. E poi ha dato la colpa a Monica Lewinsky. Ah, sì, è il famoso biscotto quello lì. Cioè le chiavi, i codici con le chiavi, che sono dei codici, si chiamano biscotto. In codice si chiamano biscotto. Ecco. E lui l'ha perso ai tempi della storiaccia con la bambina Lewinsky. Lewinsky era un po' preoccupato. Beh, allora vedi che anche l'uomo più importante della Terra può perdere il biscotto. Eh sì, però è successo tutto perché Clinton, bambino Albertino, aveva capito male la storia del biscotto, capito? Gli avevano detto stai attento al biscotto, ma lui aveva capito il biscotto, cioè non fare troppo, insomma, le robe sessuali, sì, capito? Aveva capito male, ma sì, aveva fatto male. No, sono molto attento alle cose sessuali. Cosa c'è? Dico. E Pizzaballa? Ma vabbè, chi Pizzaballa. Se ne frega di Pizzaballa? Stiamo parlando di Clinton, non lo so. Secondo me è più facile che tu ti metta alla ricerca dei codici per le bombe, lì il biscotto, vai da Clinton e gli dici: senti Clinton, io ho trovato il biscotto, ti do il biscotto, tu mi dai Pizzaballa, perché magari Clinton ce l'ha Pizzaballa. Ma secondo te Clinton faceva una collezione di figurine e c'ha Pizzaballa? Ma Albertino, chiediglielo. Bambino Bill, scusa, tu quando eri più giovane, che facevi le raccolte delle figo, avevi Pizzaballa? I did not have non ce l'avevi. Sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Oh, è finita adesso il weekend. Sì, no, K, ricordati, venerdì c'è il predicozzo di Suor Dentona. Ma di nuovo? È venerdì! Shh, eccola, che comincia. Cari bambini, oggi intendiamo parlarvi della fama effimera di cui godono oggi molti personaggi dello spettacolo e della scena pubblica. Ma che temi sceglie sempre? Ma che palle! Per carità, K, stai zitto che poi diventa una furia! E non è dal rumore che essa produce che si può avere l'indice della vera fama. Talvolta la fama è questione di fortuna del momento. La folla, che è così mutevole nei suoi giudizi e nelle sue simpatie, può, in un momento di delirio, cantare l'osanna a un uomo che ella crede degno di gloria e di celebrità. Ma ella chi? Ella Fitzgerald? Ma tale gloria spesso non è che un fuoco di paglia che non dura più di un attimo ed è subito mutata in cenere. E per l'uomo in precedenza esaltato si schiude il baratro dell'oblio. Oh, che colpo per le ambizioni! Aia! Aia! Che colpo aia! Per l'amor proprio! Aia! Eh sì, che colpo! Aia! E poiché poche sono le fame non usurpate, poche sono quelle che sfidano l'avvenire. A per giudicare una gloria bisogna attendere che i posteri diano il loro verdetto. Vabbè, e quale sarebbe sto verdetto? Aia! Aia! Aia! Bene! Il verdetto è dunque pronunciato. Andate in pace. Aia, aia, altro che andate in pace. Ancora un po' io riposavo in pace. La pace eterna, aia. Aia, ma basta! Siamo lunedì. lunedì. Ma prima salutiamo e ringraziamo i bambini Alberto Caserini e Lucia Gadolini. Grazie, grazie, ma grazie anche ai bambini di Radio 24, Margherita, Ina, Carmelo, Pietro, Giuseppe, Maria, Francesco, Giovanni, basta, Guido. Ricordate di votare per Kid Factor piuttosto e mandateci le vostre figurine di Pizza Balla a chiedoasilo@radio24.it. Ma Pizza Balla era del Milan. Dell'Atalanta. Era la prima figurina dell'Atalanta.